Ahí. Salto sul rap italiano come un trampolino. Fratello, ci sto da un pochino, tu urli. Lei si bagna quando rimo, per farlo meglio ho trovato l'algoritmo. Il flow peso anch'io come le collane dei Migos. Ti fumi in un tiro, sei un chillum al parco. La giro col filtro più largo, poi entro preciso. Frattiro con l'arco sul sample. Quando ti sento, sei come il vento se la sto girando. No, non ti sento come un sordo che sta dormendo. Fra vincolo, platino e argento. Con lei in hotel, fra più stelle di occulto. Vado cassa dritta come Coccoluto. La sua pussy è la mela di Newton. La fumo intera fra in un minuto. Noi siamo artisti. Sembriamo felici però poi siamo tristi. Scriviamo i dischi. Questi rapper vanno a casa poi ci fanno i dissi. Ho la scatola nera tu un pacco. Sono un gol in finale col tacco. Con voi come boxare col sacco. Quando sento la tua musica mi scende. Non mi importa se suona bene o se vende. Noi siamo noi e non cambiamo niente. Noi siamo noi e non cambiamo niente. Fumo da mattina a sera, fra, con la mia tipa sto a cena. Gattina matta pantera, fra, qua gira Guantanamera. Sto risalendo il ruscello, fratello, no no no, non c'è l'occhio, c'è un'elica. La faccia bianca famelica, anemica, pieve il che sparca in America. A volte in luna quantità tale che svalvolo. Guardo le sue chiappe andare, stanno così in alto che pare che salgono. Tu stai con cessa pedale che batte che rate col culo che pare un esagono. Forse era meglio se restavi scapolo. Si è fatto tardi, sentiamoci scappo bro. Faccio un tiro di gelato bro, poi ti sorrido tipo tricerato. Poi mitragliatrice da flow ricercato bro. Cambio matrice, sto rigenerando. Lo mori d'invidia, si sei triggerato. Lingua cattiva, il beat è sviscerato. Il fit è ricercato, il drink è miscelato. Che cazzo di vita, fra, non è remita. Lavoro, frate, faccio ancora il rapper. Anche se sono bello, sono influencer. Noi siamo noi e non cambiamo niente. Noi siamo noi e non cambiamo niente. Ai ai, tremo quando senti le buone al mic. Alright, 24/7 all night. Tu quando fai grano domani. Io fra sono Jimmy, io vai. Senza gli stili in dovai. Goodbye, ti ho mai dato il flow, ho detto to vai. Io non so come, tu non sai cosa. Tu lo sai bene, ma non sai cosa. Tu puoi fare schiuma, sei una ganzos. Uno schiaffo in testa quando sei in pose. La musica è una droga. E io c'ho sempre la più buona. Momento, momento, momento. Spacco lo stesso, il microfono è spento. Canto e non senti l'accento. E non senti la giungla sin quando l'accendo. Provo prendi le ruspe contro gli rivatussi. Io ti giuro non posso come fai tu. Dovrei vendere buste a matrimoni dei russi e fare i conti in rosso come iTunes. Trista la vita d'artista, specie se vivi in Italia. Come mettere incinta una terra piattista e crescere figli in Australia. È come una prigione, ti hanno condannata. Tu vuoi un'ora d'aria ma condizionata. Fuori dagli schemi per sempre. Noi siamo noi, non cambiamo niente.